Benvenuti. Oggi diamo un'occhiata approfondita a un progetto importante. Parliamo di Digitale Facile in Emilia-Romagna, un'iniziativa finanziata dal PNRR per ridurre il divario digitale. Sì, l'obiettivo è capire come funziona, cosa si prefigge, insomma, come vuole migliorare le competenze digitali dei cittadini. Abbiamo consultato un po' di materiale, documenti regionali, una proposta specifica per Imola, elenchi di servizi. Esatto, fonti ufficiali che ci aiutano a delineare il quadro. La nostra idea è, diciamo, sviscerare la struttura, gli scopi, ma anche vedere l'applicazione pratica, no? Dal regionale al locale. Proprio così. Allora, direi di iniziare. Partiamo dal contesto generale. Da dove salta fuori questo digitale facile? Beh, nasce da un'esigenza forte, che la pandemia ha reso ancora più evidente, cioè rendere i cittadini più autonomi col digitale. Ok. PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quel grande piano europeo post-pandemia, no? E va proprio nella parte dedicata alle competenze digitali. Capisco. L'idea di fondo è allinearsi a un modello europeo, il DigCOMP. Possiamo vederlo come una specie di patente per le abilità digitali e soprattutto aiutare chi rischia di rimanere indietro, il famoso digital divide. Quindi non basta dare la connessione internet, bisogna insegnare a usarla, per la vita quotidiana, per i servizi, pubblici, privati. Proprio così, non solo accesso, ma competenza. L'Emilia-Romagna ha ottenuto un bel finanziamento, siamo sugli 8,7 milioni di euro. Notevole. Sì, e con un obiettivo ambizioso. Attivare quasi 200 di questi punti di facilitazione digitale. Li chiamano punti PFD in tutta la regione. E raggiungere almeno 159.000 cittadini entro fine 2025. Wow, numeri importanti. Decisamente. E sai, è interessante vedere come questo si lega alla strategia regionale Data Valle e Bene Comune. Cioè, si cerca di valorizzare il territorio, si recuperano esperienze già fatte come Pane Internet e si punta molto sul coinvolgimento degli enti del terzo settore. Cioè associazioni cooperative. Esatto, quelle organizzazioni non profit che sono già molto presenti, radicate nelle comunità locali. E come si concretizza? Come si passa, diciamo, dalla strategia ai punti FD operativi? Ci saranno delle regole, immagino. Certo, la Regione ha fatto un avviso pubblico, una specie di bando, che spiega come devono funzionare, chi li può gestire, come arrivano i soldi. Ok. Sono principalmente gli enti locali, quindi i comuni, unioni di comuni, a presentare i progetti e spesso lo fanno insieme, in coprogettazione, proprio con quelle organizzazioni non profit di cui parlavamo. Anzi, questo modo di lavorare insieme è molto incoraggiato. Bene, allora entriamo dentro a questi punti di facilitazione digitale, i punti FD. Se una persona ne trova uno, cosa c'è dentro? Cosa serve per farlo funzionare? Guarda, fondamentalmente ci sono tre cose essenziali. Primo, una persona chiave, il facilitatore digitale. È lui o lei che materialmente aiuta le persone, che fa la formazione. Il punto di riferimento, insomma. Esatto. Secondo, serve almeno una sede fisica, un posto riconoscibile. E deve avere una connessione internet che funzioni bene, almeno 30 mega. Poi uno spazio per la privacy, postazioni con PC, webcam, microfono e la possibilità di stampare o scannerizzare. Attrezzatura di base, ma fondamentale. E il terzo punto. Il terzo è un pacchetto minimo di servizi che devono essere garantiti ovunque. Ne parliamo magari tra un attimo più nel dettaglio. Ok, ma fermiamoci un attimo sul facilitatore. Sembra davvero il motore di tutto. Che fa esattamente? Che competenze deve avere? Sì, è la figura centrale. Organizza le attività, si assicura che il punto sia aperto negli orari previsti, dà l'aiuto pratico o fa i corsi. Poi deve registrare gli utenti su una piattaforma nazionale. Si chiama Facilita e serve per monitorare come va il progetto. Ah, per tenere traccia dei risultati. Proprio così. E fa da collegamento con la regione. Chiaramente deve avere buone competenze digitali. L'avviso suggerisce, o meglio raccomanda, il livello 5 del DigiComp, che è abbastanza alto, ma è prevista anche formazione specifica per loro. E come li trovano questi facilitatori? Sono dipendenti comunali, volontari? Allora, gli enti locali hanno diverse opzioni. Possono fare assunzioni a tempo determinato proprio per il progetto, oppure dare incarichi a professionisti, lavoratori autonomi. Ok. Possono anche affidare tutto il servizio a operatori esterni, tipo cooperative o aziende specializzate. O ancora, come vedremo per Imola, possono coinvolgere direttamente le organizzazioni non profit con cui hanno coprogettato. Capito. È possibile anche usare personale che già lavora per l'ente o dei volontari? Però, attenzione, queste figure, diciamo, non sono rendicontabili. Cioè, i loro costi non possono essere coperti direttamente dai fondi PNRR. E un'altra cosa importante, c'è l'obbligo di rispettare le pari opportunità nella selezione. Giusto. E le sedi? Hai detto flessibilità. Sì, molta flessibilità. Possono essere biblioteche, scuole, centri anziani, le sedi delle associazioni. L'importante è che siano posti facili da raggiungere per le persone. E un punto FD può avere più sportelli. Sì, può avere anche più sedi fisiche collegate. Per gli orari c'è un minimo di 10 ore alla settimana per quasi tutto l'anno, ma la regione spinge per farne di più, almeno 24. E si incoraggiano anche soluzioni, diciamo, itineranti, per raggiungere magari le frazioni più piccole o il supporto da remoto. Molto bene. Arriviamo al sodo. Che tipo di aiuto pratico si riceve? Se vado in un punto FD, cosa posso chiedere? Allora, l'avviso della regione parla di tre modalità principali. La prima è l'assistenza individuale personalizzata, la facilitazione vera e propria. Il facilitatore si siede lì con te e ti guida passo passo. Ok, uno a uno. Esatto. Poi c'è la formazione online, magari anche corsi da seguire da soli usando risorse che già esistono, come quelle di Repubblica Digitale. E infine la formazione di gruppo. Questa può essere sia in presenza che online, spesso sono microcorsi molto pratici. Concentriamoci sull'assistenza individuale, quella diretta. C'è una lista di cose che devono saper fare per forza in ogni punto FD. Sì, c'è un elenco obbligatorio di servizi minimi. Ed è un elenco molto concreto, pensato proprio per le necessità di tutti i giorni. Tipo? Qualche esempio? Guarda, cose come aiuto per avere e usare lo SPID, l'identità digitale, che ormai serve per un sacco di cose. Accedere al fascicolo sanitario elettronico, l'FSE, per prenotare visite, esami o cambiare il medico. Ah, utilissimo. Poi installare e usare l'app IO, quella per ricevere messaggi dalla pubblica amministrazione, pagare multe, eccetera. Usare PagoPA per i pagamenti online verso la PA. Chiedere certificati all'anagrafe, online, tramite l'ANPR, l'Anagrafe Nazionale. Sì. Usare le app regionali per cercare lavoro, tipo Lavoro per te. Iscrivere i figli a scuola online, che ormai si fa così. Attivare un domicilio digitale, la PEC, per esempio. O anche solo usare le app dei trasporti pubblici. Insomma, un aiuto molto mirato per districarsi nella giungla della burocrazia digitale quotidiana. E questo elenco base può essere ampliato a livello locale. Esatto. Ogni ente può decidere di aggiungere altri servizi scrivendoli nella sua carta dei servizi locale. C'è però un'avvertenza importante che fa la regione. Cioè? Per motivi di privacy, di sicurezza, ma anche perché servono competenze specifiche, ci sono alcuni servizi particolarmente sensibili che in genere sono esclusi dall'assistenza individuale uno a uno. Quali sarebbero? Parliamo di cose come l'home banking, cioè gestire il proprio conto corrente online, oppure entrare nei dettagli della propria pensione sul sito INPS, compilare la dichiarazione dei redditi o leggere referti medici molto specifici. Capisco, sono ambiti delicati, troppo personali o magari richiedono un commercialista o un medico. Ma questi argomenti si possono affrontare in qualche modo? Sì, certo. Possono diventare oggetto dei corsi di gruppo. Per esempio, si può fare un corso su come usare l'home banking in sicurezza, senza entrare nel conto di nessuno, ovviamente. O un corso su come leggere la busta paga digitale. Ah, ok. In gruppo si può dare l'informazione generale. Esatto. E infatti l'avviso regionale raccomanda che ogni punto FD faccia almeno 50 ore all'anno di formazione di gruppo, sincrona, cioè con l'insegnante presente, in diretta, diciamo. Bene. Oltre all'aiuto sui servizi specifici, c'è poi la formazione più generale, l'alfabetizzazione digitale vera e propria. I corsi possono coprire tantissime cose. Ad esempio? Ma dall'ABC di come si accende e si usa un computer o uno smartphone, a come cercare informazioni su internet, ma capendo se sono affidabili o se sono fake news, come si usa la posta elettronica, i social network, come fare una videochiamata. Le basi, insomma, sì, ma anche cose un po' più avanzate. Creare un semplice documento di testo, un foglio di calcolo, fare piccole modifiche a foto e video, capire come proteggersi online, password sicure, riconoscere il phishing, gestire la privacy. E poi risolvere problemi pratici, installare un programma, fare acquisti online in modo sicuro, seguire corsi a distanza, cercare lavoro sul web. Mi sembra un'offerta bella ampia. Ma come funziona poi nella realtà? Prendiamo l'esempio che abbiamo trovato nei documenti, la proposta della cooperativa Officina immaginata per Imola e i comuni vicini. Esatto, parliamo del nuovo circondario imolese, Imola più altri 9 comuni. Lì l'obiettivo specifico è aiutare quasi 4.400 cittadini entro la fine del 2025. E la cosa secondo me molto interessante è proprio come si sono organizzati. Cioè. Hanno puntato forte sulla coprogettazione con altre realtà del territorio. Officina Immaginata è capofila, ma lavora fianco a fianco con l'associazione La Strada, che gestirà il punto nel comune di Medicina, con l'associazione Giorgio Rambaldi per il punto di Dozza, dove useranno anche dei volontari, e con l'associazione Santa Maria della Carità, che è legata alla Caritas di Imola. Ah, la Caritas. Sì, loro aiutano soprattutto a informare le persone e a raggiungere quelle più fragili che magari già seguono. Quindi una vera rete, sfruttano la conoscenza del territorio, la fiducia che queste associazioni magari già hanno tra la gente. E come si organizzano con personale e sedi? Allora, la proposta descrive bene lo staff. C'è un coordinatore e 2 facilitatori della cooperativa capofila, un facilitatore per la strada a Medicina, 3 volontari per l'associazione a Dozza e poi il supporto della Caritas per, diciamo, agganciare gli utenti. Quante ore coprono in totale? In tutto fanno circa 92 ore e mezza alla settimana, molto di più del minimo richiesto dalla regione. Gestiranno i 7 punti FD previsti per quella zona, ma aggiungono anche 2 sportelli in più, uno nella biblioteca centrale di Imola e uno itinerante per i comuni più piccoli, quelli in collina. Anche sulla formazione di gruppo superano le 50 ore minime. Ambiziosi. E come pensano di raggiungere tutte quelle persone? Quasi 4.400 non è uno scherzo. Eh no, la loro strategia mi sembra punta molto a rendere facile trovare informazioni e prenotare l'aiuto. Non ci sarà solo lo sportello fisico dove andare. Ah, ok. Come si prenota allora? Si potrà farlo tramite il servizio Informa Giovani, tramite il centro di ascolto della Caritas, ci sarà un numero di telefono unico per tutto il circondario, un sito web apposta e pensano persino a un chatbot su WhatsApp. Un chatbot. Interessante. Sì, e coinvolgeranno anche tutte le biblioteche della zona nella rete di informazione e prenotazione. L'idea è chiara. Tanti canali diversi per farsi conoscere e per rendere semplicissimo fissare un appuntamento. Credono che questo sia fondamentale per raggiungere quei numeri. Beh, ha senso. Una strategia multicanale, come si dice oggi. E sui servizi offerti a Imola, oltre a quelli minimi regionali, hanno aggiunto qualcosa di loro? Sì, hanno ampliato la lista. Per esempio, includono supporto per l'uso dell'home banking, magari nei corsi di gruppo, come dicevamo. Aiuto per la firma digitale, per partecipare a bandi o chiedere bonus online. Cose come la manutenzione base del software, l'uso di app per gestire il bilancio familiare, il parental control per i genitori. Utile. Anche servizi di traduzione automatica e l'uso del registro elettronico per le famiglie con figli a scuola. E poi hanno creato 5 format specifici per i corsi di gruppo. Uno sullo smartphone, uno sul PC, uno sulla ricerca attiva del lavoro, uno per lo studio, la formazione online e uno sulla gestione delle finanze personali online. Molto mirato. E mi sembrava di aver letto che hanno pensato anche a come raggiungere gruppi specifici di persone, vero? Corretto. Hanno delle strategie dedicate. Per gli anziani, gli over 65, lavorano con l'associazione Rambaldi e con Ancescao, che è un'associazione di centri sociali. Sfruttano anche un progetto che già avevano lì chiamato Adozione Digitale. Ah, quindi si basano su cose esistenti. Sì, poi per gli adulti che sono in situazioni di difficoltà economica o sociale, c'è la collaborazione forte con la Caritas. Loro possono indirizzare ai punti FD le persone che già vanno al centro di ascolto o all'emporio solidale. Un canale diretto per chi ha più bisogno? Esatto. E per i giovani, l'idea è collegare il servizio all'Informa Giovani, che è nel centro giovanile locale, magari coinvolgendo anche studenti più grandi come tutor, e facendo un ponte con il Fab Lab, il laboratorio di fabbricazione digitale che c'è lì. Quindi un approccio molto radicato nel contesto locale? Decisamente. Si vede che la proposta valorizza molto le esperienze che questi partner già hanno. Chi nell'animazione digitale, chi nel supporto scolastico, chi nella gestione di sportelli come le biblioteche, chi nel lavoro con le persone fragili, chi proprio nella facilitazione digitale specifica che già facevano in piccolo. Capisco. E stanno pensando anche all'assistenza a distanza e a coinvolgere pure altri sportelli, tipo quelli dei sindacati o dei patronati, per allargare ancora la rete di prenotazione. Insomma, è un buon esempio di come un modello regionale generale viene poi, come dire, messo a terra e arricchito dalle specificità locali. Davvero interessante e sembra ben pensato. Ma come si regge tutto questo economicamente? Abbiamo detto fondi PNRR, ma come funziona l'assegnazione? Sì, allora, la regione dà i fondi agli enti locali. La cifra dipende da quanti punti FD sono previsti sulla carta per quella specifica area. Il contributo serve a coprire soprattutto i costi dei facilitatori, cioè le attività di formazione e assistenza. Ok, il personale principalmente. Principalmente sì, ma c'è anche una parte per la comunicazione, per far conoscere il servizio, e una per comprare tecnologia, PC, webcam, eccetera. Diciamo fino a 2.000 euro per punto per la tecnologia e 1.500 per la comunicazione. E c'è anche un piccolo bonus per i progetti che riescono a mettere insieme più comuni piccoli. E dato che sono fondi europei, fondi PNRR, immagino che i controlli e le responsabilità siano stringenti. Assolutamente. La rendicontazione è un aspetto fondamentale. C'è un sistema bello rigoroso. Il numero di persone aiutate, come dicevo, viene registrato sulla piattaforma nazionale Facilita. Le spese, invece, vanno documentate su un altro sistema che si chiama Regis. Ok. E i soldi non arrivano tutti subito. La regione paga gli enti locali a rate, diciamo, solo se raggiungono degli obiettivi intermedi precisi, sia come numero di punti FD che sono davvero aperti e funzionanti, sia come numero di cittadini che sono stati effettivamente aiutati. Quindi pagamenti legati ai risultati. Esatto. E in più bisogna rispettare tutta una serie di principi che valgono per tutto il PNRR. Ad esempio il principio DNSH, Do No Significant Harm, cioè non devi arrecare danno all'ambiente. Significa banalmente comprare attrezzature efficienti dal punto di vista energetico, smaltire bene quelle vecchie. Capisco. Poi garantire la parità di genere, essere trasparenti in tutte le procedure. La regione fa i suoi controlli e se le cose non vanno come dovrebbero, i fondi possono essere ridotti o, nei casi gravi, anche revocati. È un meccanismo pensato per essere sicuri che i soldi pubblici vengano spesi bene e portino i risultati che ci si aspetta. Bene, mi sembra chiaro. Proviamo a tirare le somme. Questo progetto digitale facile in Emilia-Romagna appare come uno sforzo, diciamo, strutturato, organizzato, per dare ai cittadini competenze digitali che ormai sono essenziali. Sì, usando una rete di centri vicini sul territorio e puntando molto sulla collaborazione con chi già c'è, con le associazioni, le cooperative. E l'esempio di Imola che abbiamo visto fa capire bene come poi questo schema generale possa essere adattato, personalizzato, forse anche potenziato a livello locale. È un investimento importante, non c'è dubbio. Cerca di far diventare la famosa cittadinanza digitale qualcosa di concreto per molte più persone. L'obiettivo non è solo dare l'accesso a internet, ma creare vera capacità, vera autonomia nell'usare gli strumenti digitali. Giusto. È l'attenzione che mettono sui servizi minimi garantiti dappertutto, sulla formazione dei facilitatori, sul monitoraggio continuo dei risultati. Ecco, tutto questo cerca di assicurare un certo standard di qualità in tutta la regione. Perfetto. E come facciamo sempre, chiudiamo con uno spunto di riflessione, qualcosa su cui magari ragionare un po'. Abbiamo visto che il progetto si basa molto sulle partnership locali e questo potrebbe portare a delle differenze magari tra come viene realizzato in un posto rispetto a un altro. Sì, è un rischio potenziale. L'eterogeneità. Ma la domanda forse ancora più grande riguarda il futuro, il dopo PNRR. Come si può fare in modo che l'impatto di questo sforzo sia duraturo, che questi servizi o qualcosa di simile continuino ad esistere anche quando i fondi specifici finiranno, nel 2025-2026? Bella domanda. Insomma, quale futuro possiamo immaginare per questi punti di facilitazione digitale e soprattutto per le competenze digitali dei cittadini che ne avranno beneficiato?